5C. Ascolta e rispondi. Che cosa avete nella borsa? Abbiamo dei documenti. Che cosa avete nella borsa? Abbiamo dei libri. Che cosa avete nella borsa? Abbiamo dei telefoni. Che cosa avete nella borsa? Abbiamo delle macchine fotografiche. Che cosa avete nella borsa? Abbiamo delle mappe. Che cosa avete nella borsa? Abbiamo delle matite.